e confidi i tuoi segreti, le voglie e i tuoi tabù. Aria da bambina, naso all'insù, ho quegli occhi da cerbiatto, nuvola nel blu. Petalo di maggio, vestito a pua, e scende vestito, ragno impazzito, fragole e miele. Scende vestito, sogno proibito, ecco perché, se l'amore c'è, lo faremo in te, tu con me, lei con te, io con te, lei con me. I tuoi 50 anni non ti fermi mai, me la impara il viso, schiava più che mai, con lo sguardo a luci rosse ed il sangue blu, suona il mandolino, in più, e scende il vestito, ragno impazzito, fragole e miele, scende il vestito, sogno proibito, ecco perché, se l'amore c'è, lo faremo in te, tu con